una volta superato così il disorientamento che ti porta la fragilità, può essere veramente un punto di inizio per crescere e trasformare questa fragilità in punti di forza per la tua crescita personale. Tutti possiamo essere fragili nella vita? Tutti siamo fragili, sì, tutti noi. Ed è importante perché la fragilità ci fa anche fare, ci porta a fare delle domande a noi stessi che sono veramente a volte dei punti importanti per iniziare a crescere. Cosa significa esserlo? Essere fragili vuol dire riconoscere anche di essere una persona con dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza. Tutti noi lo siamo, è importante capire anche il periodo, magari c'è un periodo che siamo più disorientati, più fragili e questo periodo non ci fa altro che rinforzare caratterialmente per crescere nella nostra vita. E se dovessi descriverla con parole chiavi, che parole useresti? Potrei dire disorientamento, riconoscimento, credici, falla diventare un punto di forza e cresci con essa. E con colori? Il colore che può avere la fragilità è un colore un po' nebbiato, secondo me. Che non sai bene in che direzione andare quando si sta male, quando ci si sente un po' più fragili. Forse questa neve, questo bianco un po' nero, un po' grigio. Con immagini invece come la rappresenteresti? Allora, con immagini potrebbe essere un blocco di cristallo, no? Che quindi si può scheggiare magari all'inizio, cioè nella parte più esterna, ma poi dentro il cristallo è fortissimo, quindi una volta scheggiato che mi fa sbattere, a me fa sbattere la fragilità contro lo star male, una volta fatto questo passaggio che poi la riconosco, che quindi mi si è scheggiato il mio cristallo, dentro mi rende più forte, quindi il cuore del cristallo è sempre molto forte. E con un suono cosa sarebbe? Quale sarebbe? Io forse in realtà la considero qualcosa che si spezza, no? Che poi si ricomincia, quindi non so, un tacco, uno spezzarsi. Quando si rompe un bicchiere, il cristallo. Cosa si potrebbe fare o agire per favorire l'inclusione? Allora, noi per aiutare le persone ad essere, a far parte di questa comunità, stiamo facendo dei lavori per trasformare la persona che può essere considerata una persona che ha bisogno di servizi, quindi trasformarla in una risorsa. Questo è fondamentale, perché la persona può e deve essere risorsa per la comunità, diventare cittadino attivo. Quindi facciamo tutta una serie di progetti esterni, ad esempio una persona diventa volontario dell'asilo, della scuola materna di Storo e una volta in settimana va a fare dei lavori alla scuola materna di Storo, un'altra persona è diventata volontaria della cooperativa di Storo, una volta in settimana va ad aiutare e quindi questa persona, indipendentemente dalla sua disabilità, che questa è un pezzo secondario, perché prima di tutto una persona, questa persona diventa utile e una risorsa per la comunità. Quindi potrebbe essere veramente una strategia vincente questo per evitare l'esclusione. E si potrebbe migliorare in qualche modo la situazione? Sempre. La situazione si può sempre migliorare. Partendo proprio da noi stessi, no? Considerandoci prima di tutto tutte persone, indipendentemente da colore dei capelli, da un disagio psichiatrico o altro. E se noi siamo disposti a conoscere la persona, allora siamo disposti a metterci in gioco, a crescere noi e a far sì che questa comunità diventi più ricca, perché ha persone, che siamo poi noi cresciute grazie a questo percorso, capaci di accogliere tutti e conoscere.